as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, eccoci qui ritrovati ad Il Pane e le Rose. Io sono Ottaviano Gianplacido. Oggi qui da Radio Città Fucico 103.1 FM da Bologna, trasmissione dei metalmeccanici, facciamo un po' il punto della situazione. Questa puntata non abbiamo intervistato nessuno, sono io qui da solo che voglio raccontarvi un po' quello che è successo. Allora, innanzitutto, sono qualche settimana che ci segue non sente la trasmissione. Diciamo che questo periodo sono particolarmente impegnato, qualche sfiga così, ma soprattutto impegni dovuti al sindacato, perché chi vive all'interno delle fabbriche sa che per quanto riguarda i metalmeccanici di tutta Italia, ma insomma i lavoratori in questo periodo, nella teoria, ovunque ci sia un iscritto CGL, si sta svolgendo il congresso. Doveva svolgersi prima delle votazioni, a causa della caduta del governo è stato rimandato e ci troviamo in questi due mesi a fare questo congresso e ogni giorno siamo in giro per le fabbriche a presentare documenti. Dico subito che faremo un paio di puntate dedicate al congresso. Ci sarà a dicembre il congresso della FIOM di Bologna, dove ci sarò anch'io, e queste due faremo un paio di puntate in cui finite le assemblee, insomma, perché comunque sia chiaramente sono schierato con il documento 2, documento di cosiddetta minoranza. Alla fine delle assemblee faremo un paio di puntate dedicate a questo congresso. Il congresso comunque si concluderà a febbraio ed è un momento importante. Uno la può considerare la CGL più o meno un sindacato importante, c'è chi ci crede ancora, chi invece è completamente deluso, ma comunque sia è il sindacato più importante che oggi noi abbiamo in Italia. Abbiamo 5 milioni di iscritti e il congresso è un momento importante perché la CGL è l'unico sindacato, con tanti difetti che ha, che però va in giro per tutti i luoghi di lavoro e si confronta con i lavoratori. Nelle assemblee sono aperte a tutti e poi i lavoratori, tutti gli iscritti, possono votare i documenti. Il nostro congresso poi alla fine è veramente, si parte dalla base, non si fanno come fa qualcuno i congressi in cui sono i delegati che votano e votano spesso un unico documento dove non c'è nemmeno la possibilità di poter dire la propria, tranne fare qualche emendamento, qualche discussione così. Dunque, affronteremo nelle prossime puntate questo argomento, intervistando chi presenterà il documento 2, chi sta presentando il documento 1. A parte questo, noi abbiamo avuto delle cose importanti in questo periodo. Ci sono state delle questioni che sono sicuramente da affrontare nel mondo metalmeccanico. Finalmente c'è stata una manifestazione contro la guerra imponente. Noi il Pane Rosa la chiediamo da che il mondo sindacale si schieri apertamente con grosse manifestazioni dal mese di febbraio. Veramente c'è chi come me la guerra purtroppo l'aveva prevista da tanti anni, chi si occupa di Donbass dal 2014 che chiediamo, insomma, che il mondo si occupi e porti la pace in Ucraina. Questa è una notizia importante, però abbiamo visto che siamo in una situazione di inflazione galoppante, abbiamo delle minacce di deindustrializzazioni, poi oggi, adesso ci ascoltiamo un bel pezzo musicale, poi parleremo un po' delle riflessioni fatte dalla FIOM, parleremo di quello che è accaduto in GKN, perché la GKN è lo specchio, dal mio punto di vista, delle lotte che in questo momento di resistenza che vengono fatte all'interno delle fabbriche. La GKN è veramente, non è l'unica, ma è la punta di diamante dei metalmeccanici in questo momento delle lotte che stiamo facendo. Sono ormai tanto tempo che stanno resistendo, hanno fatto tantissime cose importanti, abbiamo fatto la puntata sulla manifestazione dei fine ottobre, e vi parleremo anche di questo, ma soprattutto parleremo anche di quello che è successo in Fiom, di una decisione importante presa nel Comitato Centrale, e poi parleremo anche di quello che verrà fatto dagli altri sindacati il 2 dicembre, il 3 dicembre, sono cose importanti, insomma, che le affronteremo in questa puntata. Adesso ci ascoltiamo un bellissimo pezzo, oggi facciamo un po' di musica, diciamo, ricercata, ok? Ok, sentiamo dopo. Abbiamo ascoltato Original dei Letfield, bellissimo pezzo. Oggi veramente la musica sarà un passo avanti rispetto alle altre puntate. Allora, iniziamo con una convocazione urgente del Comitato Centrale della FIO, che c'è stata un paio di settimane fa, dove siamo stati insomma tutti sorpresi, perché è stata una convocazione insolita, improvvisa, in cui il nostro segretario nazionale della FIOM, De Palma, insomma molto preoccupato per quello che accadrà nel 2023, ci ha chiesto a tutti quanti noi, come dirigenti nazionali, di fare una riflessione insieme a lui. La situazione è drammatica, un'inflazione alle stelle, costi delle materie prime veramente oltre l'inflazione, insomma stiamo parlando di costi che si sono triplicati in molti casi, dunque energia alle stelle, costi triplicati delle materie prime. Altri paesi invece questo non è accaduto, è chiaro che il rischio di deindustrializzazione è alle porte e il rischio di finire in cassa integrazione con una cassa integrazione ridotta, quella che oggi noi abbiamo, che è di 1000 euro lordi e poco più, in un momento in cui l'inflazione è al 12%, l'11-12%, e con le bollette rischiamo che dobbiamo pagarle con i soldi della cassa integrazione. Veramente è una situazione di possibile tragedia, una tragedia immane. Questo ha tutti quanti noi portato a fare una riflessione che dobbiamo spingere. Dobbiamo spingere perché almeno l'industria chiede al governo di fare qualcosa, soprattutto di utilizzare i soldi per una politica industriale, per evitare il rischio di industrializzazione. La FIOM ha deciso di mettersi in gioco e di spingere la CGIL, dunque pensare di proclamare delle ore di sciopero per poter fare in modo che il sindacato dell'industria, almeno all'interno della CGIL, ma aprendo a tutti questo un confronto che porti a spingere il governo attraverso delle mobilitazioni a far sì che i soldi vengano dirottati nel nostro settore. Ora, questo a molti può sembrare egoistico, ma in realtà se dovesse arrivare in Italia una forte deindustrializzazione, peggiore di quella che è accaduta nel 2008-2009, in cui abbiamo avuto un duro colpo durante la crisi, ma lì le situazioni erano anche migliori di quelle di oggi, noi ne risentiremo come tutto il paese, avremo una situazione davvero drammatica per la classe operaia italiana, va di tutta l'industria, ma poi collegata ad esso c'è tutto il resto del mondo, insomma. E questo è stata una cosa che ci ha visto tutti quanti uniti. Certamente stiamo facendo un congresso, ma davanti a una richiesta di spingere per affrontare tutte le questioni che sono oggi sui tavoli, soprattutto di crisi, perché oggi ci sono più di 70 aziende che sono al MISE, adesso non si chiama più MISE ma io lo continuerò a chiamare così, nel Ministero insomma dello Sviluppo, si rischia che anche tante altre aziende possano finire in quel tavolo, e questo quando si arriva lì, cioè, non accade come la saga Coffee. Poi ne parlerò alla fine, il 23 ci sarà un'iniziativa su un libro, no? Poi ne parleremo, ci faremo un libro che Primo Sacchetti ha scritto sulla vicenda della saga Coffee. Non tutte le vicende finiscono così, in cui c'è un imprenditore che non è un cavaliere bianco, poi parleremo del GKN, in cui abbiamo scoperto che invece lì sì che c'è un cavaliere bianco, ossia quelle persone che arrivano, che in realtà promettono di salvare le aziende, poi in realtà, come è successo in Whirlpool, sono solo specchietti per le allodole. Ripeto, il rischio è che tantissime aziende si trovano in situazione in cui è chiusura lenta fino alla chiusura completa, e potremmo avere migliaia e migliaia di famiglie senza reddito in Italia, ma centinaia di migliaia. Questa è una situazione che ci preoccupa, però se la FIOM fa pesare la sua forza nell'industria, riesce a spingere tutte le altre categorie dell'industria a mobilitarsi e a chiedere al governo di fare una politica finalmente sullo sviluppo industriale, di creazione di posti di lavoro, di salvaguardia dei posti di lavoro, potrebbe questa crisi che arriverà essere attenuata. Detto questo, parliamo proprio di deindustrializzazione e bisogna parlare di GKN. GKN, dopo la manifestazione di cui parlavo prima, di Bologna, in cui ha partecipato anche lei, e c'è stata quella poi contemporanea della pace, non è andata molto bene a Napoli, però chiaramente c'era la grande manifestazione di Roma, i numeri non sono stati quelli di Bologna a Napoli, con i disoccupati organizzati, però insomma la cosa importante è che GKN si sta muovendo nel territorio, sta cercando, è riuscita a creare delle connessioni, molti hanno recepito il messaggio del GKN, stanno partecipando, c'è questo movimento intorno alla GKN di studenti, operai, società civile, però la vicenda della GKN per quanto riguarda la reindustrializzazione del sito purtroppo non sta andando bene. Borgomeo, questo salvatore della patria, si sta verificando quello che purtroppo noi non volevamo accettare, il fatto che speravamo che non accadesse, ma in realtà questo qui sta facendo finta. Insomma, tutte le promesse fatte anche quest'estate c'erano sui giornali, alle aziende importanti, qui anche l'azienda in cui lavoro io, Bonfiglioli Dottore, tante altre aziende, che c'era questo consorzio per la ricerca, per lo sviluppo. E purtroppo quando c'è troppa carne al fuoco, si parla di ricerca, sviluppo e formazione, così spesso si parla di niente. E adesso la scusa è che la GKN è una fabbrica occupata e dunque lui, Borgomeo, è solo e non riesce ad attirare investimenti e tutto il resto. Sono tutte scuse, lo sappiamo benissimo, sono tutte scuse. La GKN c'è un presidio permanente, i compagni della GKN hanno respinto un assalto che poi settimane fa hanno tentato, hanno chiamato tutti a raccolta, i lavoratori del territorio soprattutto, perché Borgomeo voleva prendersi del materiale, la paura era che potesse prendere le macchine e svuotare la fabbrica. Non è riuscito questo assalto, però i lavoratori della GKN sono sottoposti a uno stress elevato, basta andare sul loro sito per capire che sono assediati, ma loro stanno rispondendo in maniera forte, intelligente, non si danno per vinta assolutamente. C'è una campagna, perché loro veramente sono senza cassa integrazione, sono in una situazione economica delicata, c'è una campagna, noi metteremo sulla nostra pagina il loro IBAN per poter, chi volesse, si può andare anche nel loro sito di Facebook, sulla pagina di Facebook, però c'è chi vorreste fare dei versamenti, c'è un codice IBAN dove versare di cassa mutuo soccorso, perché hanno bisogno di fondi in questo momento. Hanno fatto sono andati in comune, una specie di occupazione del comune, sei giorni fa, per rivendicare delle cose importanti. Loro vogliono che il pubblico intervenga, vogliono che le famiglie abbiano comunque la cassa integrazione, abbiano comunque delle entrate, perché comunque sono 300 famiglie nel GKN. Vogliono che ci sia l'intervento pubblico, perché loro vogliono che il sito rimanga, vogliono che ci siano dei soldi per industrializzare, non vogliono perdere quei 300 posti di lavoro, non vogliono perdere il know-how, e quell'azienda non deve sparire. E per questo si sono rivolti allo Stato, al Comune, alla Regione, a tutti quelli che devono intervenire. Non si danno per vinta. Lunedì c'è stata un'assemblea permanente davanti alla fabbrica, in cui hanno chiamato tutti, insomma, per difendere la fabbrica. Hanno chiesto al comune di venire in fabbrica. Loro sono andati loro in comune, adesso stanno chiedendo a Firenze di essere con loro solidali, di insorgere insieme. La battaglia di GKN è una battaglia fondamentale. Hanno dimostrato che si può resistere, si può andare avanti. Hanno dimostrato di aver creato comunque intorno a loro un movimento forte di lavoratori che li sostengono, e questo è fondamentale. Noi saremo sempre al loro fianco, perché la GKN va difesa tutte le aziende che come la GKN resistono e non si piegano alle logiche di mercato. Non si piegano alle logiche in cui i padroni possono fare quello che vogliono sui corpi dei lavoratori. Ed è importante che loro vincano questa battaglia. Adesso ci ascoltiamo un altro pezzo musicale, e poi parleremo di quello delle prossime iniziative che ci saranno in questi giorni. Ok, sentiamo dopo. Abbiamo ascoltato anche questa volta un bellissimo pezzo musicale, abbiamo ascoltato The Rhyme Goes On dei Poets of Thought. Adesso vi prometto, visto che sono stato ripreso da molti che non dico mai gli autori delle canzoni che metto nella trasmissione, adesso vi prometto che dai, lo farò. Non pensavo che fosse così importante, però ho avuto tantissimi solleciti da molti. Molti lavoratori che seguono la trasmissione dicendo: ma scusa, ma non spieghi mai che sono bellissime canzoni, però non ci dici chi sono, insomma, come facciamo a trovarle? Avete ragione, vi chiedo scusa, e da oggi in poi dirò, insomma, le musiche dove le ho trovate, chi sono, insomma, le canzoni, i testi, dove cercarle, poi andate su internet, li trovate. Ora, il 18 novembre c'è stata la manifestazione No Meloni, di cui ne hanno parlato pochissimi, ma gli studenti sono scesi in piazza. Questo è un gran risultato, perché questo governo sta cominciando a far arrabbiare un po' tutti. Devo dire, i lavoratori in questo momento sono un po' sorpresi. I militanti, sia sindacali che i militanti politici nei luoghi di lavoro, sono incazzati neri. Chi si rende conto di quello che sta facendo la Meloni, chiaramente è veramente arrabbiato. Da cui io, cioè, non mi aspettavo una cosa del genere, ma aspettavo sì che queste cose qui le avrebbe fatte dopo aver fatto qualche misura populista. Invece proprio non hanno faccia, cioè hanno una faccia come il culo, hanno una faccia come il culo. Cioè, la prima cosa che hanno fatto è aiutare i pusher, portando dei soldi ai 5.000 euro, cioè riciclaggio, grazie. In Italia fare una cosa del genere da folli. Poi io non è che sono per le banche, no, per le carte di credito, però cioè, è palese. Poi tutto il resto che stanno facendo, è da mettersi le mani ai capelli. Cioè, io non lo so. Chiaro che sono scesi in piazza il 18 novembre in molti, molti posti in Italia. Queste sono state delle belle manifestazioni. Ora, appuntamento importante, primo appuntamento 26 novembre a Roma. Non uno di meno ha organizzato una grande manifestazione contro la Meloni, perché se c'è qualcuno in questo momento odia la Meloni più di me, sono sicuramente le donne, insomma, quelle che si sono sempre battute per i diritti delle donne, contro la violenza sulle donne, e vedono la Meloni veramente come una l'antifemminista, insomma. Qualcuno parlava di la Meloni finalmente un presidente del Consiglio donna, ma in realtà per le donne sarà una disgrazia enorme, anche perché potrebbe far passare tutta una serie di leggi come donna, ancora peggio. Se un uomo, insomma, è più facile, no, criticarla. Se una donna, si rischia veramente che gli uomini facciano passare una serie di leggi contro le donne, così come è successo nelle regioni in cui governa Fratelli d'Italia, guardiamo le Marche ad esempio, insomma, per limitare i diritti dell'aborto, i diritti delle donne, insomma, c'è tutta una serie di questioni. 26 novembre a Roma ci sono vari compagni che si stanno organizzando per gli autobus. Io vi consiglio, insomma, di cercare sui siti per poter andare a Roma, insomma, è una giornata importante. Ora, altre giornate importantissime, bisogna parlare dello sciopero generale dei sindacati di base del 2 dicembre, e io sono molto contento perché l'ho letto la loro piattaforma e praticamente ci hanno copiato. Sembra che i sindacati di base a un certo punto abbiano preso le cose che diciamo sempre in trasmissione, cosa che noi chiediamo da tanto tempo, e le abbiano messe tutte lì in una piattaforma. Calcolate che alcune interviste che io ho fatto a dei funzionari sindacali di base, quando chiedevo: ma quando è che vi comincerete a battere per la scala mobile? Se vi ricordate, dicevano: sì, ci stiamo pensando, è una cosa che comunque non da sottovalutare. Ma poi di mesi fa discutevamo proprio con i funzionari in radio, visto che sulla scala mobile, bisogna dire la verità, noi del Paese delle Rose la chiediamo da un sacco di tempo, da quando ne discutevamo con, se vi ricordate, con gli intellettuali francesi che sono venuti a intervistarci, hanno scritto un libro su quello che è successo a marzo nel 2020 qui in Italia. È tanto tempo che noi chiediamo anche che si dica no alla guerra, tutta una questione legata al salario minimo, finalmente si lotta. Loro hanno proposto nella loro piattaforma 12 euro, tanta roba. Sinceramente mi accontenterei anche di 10 in questo momento. L'importante è che sia indicizzata l'inflazione, quello che la stessa Europa ha chiesto nella raccomandazione, chiamiamola così, che l'Europa durante il governo Draghi ha chiesto all'Italia di introdurre il salario minimo. In quel testo si legge benissimo che si parla di un salario minimo, forma di indicizzazione in base all'inflazione. È vero che la scala mobile in Europa c'era solamente il Belgio, ma gli altri paesi hanno un salario minimo indicizzato che aumenta. Sono cose importanti, e il 2 dicembre loro si sono di nuovo tutti uniti. Questa è una grande conquista del mondo dei sindacati di base, perché per anni si sono divisi, sono tante sigle che spesso non sono riusciti a organizzarsi. In questo momento stanno dimostrando una forte unità su alcuni temi, su una base comune. Questo è molto molto importante per la lotta di classe, ma la lotta è ancora dura per tutti quanti noi, e dobbiamo lottare. Se lottiamo possiamo vincere, se non lottiamo abbiamo già perso, e noi non abbiamo voglia di perdere. A presto, compagni.